Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Mercoledì 4 agosto, buongiorno a tutti e a tutti da Antonella Cortese. In particolare un caro saluto alle persone ristrette delle case circondariali dell'Emilia Romagna e della Dozza. E bentrovati su Liberi Dentro e Radio TV, la trasmissione in onda su Radio Città Fugico, Teletricolore e Lepida. Il programma, che ormai lo sapete tutti, che fa da ponte tra carcere e città. Buongiorno anche Ignazio De Francesco, volontario AVOC, che sarà con me e Caterina per tutto il mese di agosto a condurre la trasmissione. Buongiorno Ignazio. Buongiorno, buongiorno, lo dico anche in arabo, dai, stavolta, salam aleikum, sabah al, che vuol dire poi pace a voi, o sabah al khair, buongiorno, ahlan wa sahlan, a tutti e a tutte. E io Ignazio colgo sempre l'occasione per ringraziare tutti quelli che oggi ci permettano di essere qui, e quindi tutti quelli che hanno donato su Ginger, la piattaforma del crowdfunding, e che oggi ci consentono di chiacchierare, di portare un po' di sollievo nelle carceri della nostra città, della nostra regione, e per un'ora al giorno, perché vi ricordiamo che questa trasmissione dura un'ora e tutti i giorni sarà disponibile per voi. E quindi, insomma, grazie di cuore. E intanto, Ignazio, ti passo la parola, perché tu oggi ci parlerai di una cosa molto interessante. Le nuove regole per un carcere moderno, secondo un'associazione a cui noi teniamo particolarmente, che è Antigone. Sì, e veramente ci teniamo particolarmente, perché Antigone è diventato partner di Eduradio TV con Patrizio Gonella e la Susanna Marietti, che fanno questa trasmissione straordinaria Jailhouse Rock in tutto il mese di luglio, l'hanno fatta, e poi anche in agosto, e ci regalano sul fronte invece delle loro attività per un carcere migliore questo progetto di regolamento. Voglio leggere quello che dice Patrizio Gonella, per non sbagliare, per riferire il suo pensiero: è arrivato il momento che il governo approvi nuove regole che modernizzino la vita carceraria. Antigone a tal fine ha elaborato e proposto un nuovo regolamento penitenziario che prevede più possibilità di contatti telefonici e visivi, un maggiore uso delle tecnologie, un sistema disciplinare orientato al rispetto della dignità della persona, una riduzione dell'uso dell'isolamento, forme di prevenzione degli abusi, sorveglianza dinamica e molto altro. Le persone che ci ascoltano in questo momento dal carcere sa di che cosa sta parlando Patrizio Gonella. Sono tutte cose fondamentali. Sì, questo è quello che ha detto Patrizio, che ovviamente condividiamo, ma che cosa prevede esattamente la proposta di Antigone inviata tra l'altro al Presidente del Consiglio Mario Draghi, alla Ministra della Giustizia Marta Cartabia e ai parlamentari della Commissione Giustizia di Camera e Senato? Fare un quadro completo è impossibile nei pochi secondi della nostra trasmissione, minuti. Credo che meriti davvero poi un'intervista a Patrizio Gonella, però tanto per dare qualche idea. Sicuramente ci sono delle cose da fare a livello di tutela della salute delle persone detenute. Cioè, non è che perché sei stato immesso in carcere che hai perso un pezzo del diritto alla salute. La tua salute deve essere tutelata. Tra l'altro bisogna dire che le nostre colleghe, possiamo chiamarla così, dell'equipe sanitaria in carcere, c'è la Nadia Sueri, c'è l'Agnese Drusiani, si stanno veramente dando tanto da fare. Per questo però sappiamo che ci vogliono tante cose. Per esempio, uno non deve essere un'urgenza gravissima per poter uscire dal carcere e essere curato. Ecco, devono allargarsi le maglie. Se uno ha bisogno di andare in un ospedale, deve poter andare in un modo più facile e veloce. Sì, hai proprio ragione. Poi c'è anche la questione della salute mentale, però. Sì, questo è un tema molto grosso. Certo, togliamo gli OPG, gli ospedali psichiatrici giudiziari, ma che cosa ne è delle persone che sono detenute e che sono portatori, portatrici di una sofferenza psichica anche grave? Quando li si incontra in carcere è una grande pena che si prova per loro, e quindi anche è necessario ampliare anche il servizio per seguire questo tipo di persone. Sì, parliamo anche di donne un attimo, Ignazio. Quali sono le norme a tutela delle detenute per evitare le discriminazioni, che sono tante e insomma importanti? Sì, anche su questo io direi che merita veramente un'intervista a Gonnella e alla Susanna Marietti per dire che cosa pensano a questo riguardo. Anche qua, se ci sono delle signore detenute che ci stanno ascoltando, sanno benissimo che quello che dice Patrizio Gonnella, le donne sono una minoranza nelle carceri, che sono già pensate al maschile, per questo va fatta una norma ad hoc per le detenute. Tante volte ci viene detto che c'è una discriminazione oggettiva, certe possibilità che sono previste per i maschi non sono altrettanto a livello di formazione, di orientamento al lavoro per le donne. Veramente c'è un grande cammino da fare per una parità di genere in carcere. Abbiamo molto da fare, c'è molto lavoro ancora da portare avanti, però io cambierei argomento e ti chiederei che canzone vuoi lanciare oggi? Allora, nessuna nostalgia, perché queste canzoni suscitano nostalgia, però vorrei dedicare Azzurro di Celentano, una canzone dell'estate, a Sonia e a Maria Cristina e anche a tutte le altre e a tutti gli altri. Benissimo, allora un caro saluto a Sonia e a Maria Cristina e ascoltiamoci questa bella canzone. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro. Senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino. Facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza. All'incontrario va, azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Eccoci di nuovo insieme dopo aver ascoltato Azzurro di Adriano Celentano e oggi parliamo del pellegrinaggio alla Mecca di luglio, il cosiddetto Hajj. Lo pronuncio bene, Ignazio? Sì, Hajj, il Hajj. Ah, Ottimo. ci picchia, Hajj, scusatemi tutti, ma io ci provo. Comunque, il pellegrinaggio islamico, che è il quinto pilastro dell'Islam ed è tra tutti la manifestazione più significativa della fede musulmana. Il pellegrinaggio a Mecca è obbligatorio per ogni fedele musulmano che abbia le possibilità economiche, ovviamente, ma anche fisiche. E ad oggi più di 2 milioni di musulmani di ogni età e nazionalità si recano presso i luoghi sacri per il pellegrinaggio. Il flusso dei pellegrini che si recano in Arabia Saudita per il Hajj è regolato e controllato al fine di salvaguardare i pellegrini ed evitare il sovraffollamento dei luoghi sacri. Infatti, Allora, dici un po' com'è andata quest'anno. Ignazio, ti dicevo, di solito c'è una partecipazione enorme, però Quindi oltre 2 milioni di pellegrini che si recavano sul monte Arafat, meta scelta perché si ritiene che qui il profeta Maometto abbia tenuto il suo ultimo sermone. Quest'anno però, causa pandemia, è la prima volta che questo numero così grande non si realizza, ma è una data significativa perché è la prima volta che le donne non accompagnate vi possono andare. Ecco. Decina di migliaia di fedeli musulmani, per lo più sauditi e stranieri residenti in Arabia Saudita, si sono recati a piedi al monte Arafat, nei pressi della città santa, come tappa del pellegrinaggio che per il secondo anno consecutivo si svolge all'ombra di rigide restrizioni a causa della pandemia. Prima o poi finirà, speriamo bene. Comunque, secondo la TV panarabo saudita Al Arabiya, solo 60 milioni di fedeli si sono accalcati nei pressi del monte Arafat, quando negli anni pre-Covid, abbiamo detto, ce n'erano tanti, tanti di più. Ecco, 60.000 sono molti, pochissimi rispetto appunto ai numeri che si davano. Io ricordo quando stavo in Giordania che c'erano le selezioni, ogni stato ha una quota annuale, quindi entrare in questa quota, per esempio uno che ha avuto un bel voto alla maturità, perché di solito non lo danno ai giovani, ma ai più anziani, eccetera, eccetera, è un grande regalo. Dunque, con quali criteri sono stati scelti questi 60.000? Ovviamente ci sono stati criteri selettivi abbastanza stringenti a causa anche della pandemia e il numero si è ridotto. Quindi sono stati selezionati online tramite un meccanismo di estrazione casuale tra gli oltre 500.000 di sauditi e residenti in Arabia Saudita che avevano dimostrato di essere in possesso dei requisiti, diciamo delle condizioni di base, tipo avere età compresa tra i 18 e i 65 anni, essere già vaccinati con doppia dose e non soffrire di patologie croniche. E per la prima volta al pellegrinaggio, come ti dicevo, possono partecipare anche le donne non accompagnate da uomini. La decisione, annunciata da pochissimo, ha spinto molte donne a presentare immediatamente la propria domanda e per i pochi, dopo tutto, pochi posti disponibili quest'anno. Secondo le autorità sanitarie saudite, sembra che poi non ci siano casi, non tanti casi, diciamo, di positivi durante il pellegrinaggio. I pellegrini poi sono divisi in piccoli gruppi durante ogni fase del pellegrinaggio. In più hanno anche introdotto la carta di pellegrinaggio elettronico che consente l'accesso senza contatto a campeggi, hotel per pellegrini ovviamente e anche il trasporto verso i siti religiosi. E poi ci sono addirittura robot e meccanismi elettronici che sono stati impiegati per distribuire bottiglie d'acqua ai pellegrini in modo che non si tocchi nulla e soprattutto che non tocchino la Kaaba, la venerata pietra nera al centro del luogo sacro di Mecca. Ecco, ed è andato tutto liscio allora in questo pellegrinaggio? E diciamo di sì, dai, abbastanza. Ci sono stati alcuni arresti per falsi green pass e test. Le autorità saudite hanno arrestato oltre 120 persone sospettate di fornire o procurare finti green pass vaccinali o test covid negativi per accedere a edifici pubblici o partecipare appunto al pellegrinaggio. Fra questi vi sono la modifica delle condizioni di infezione, lo stato di vaccinazione e la venuta somministrazione di una o due dosi del vaccino. Però c'è da dire che sono stati tutti molto attenti perché pensa che da maggio le autorità hanno introdotto la vaccinazione anti-covid come prerequisito obbligatorio per accedere in molti luoghi pubblici o privati, fra cui i trasporti. Inoltre, per esempio, cosa che insomma ha aiutato a diminuire il contagio, solo i dipendenti pubblici e privati che hanno ricevuto l'immunizzazione possono tornare sul posto di lavoro. Va bene, allora auguriamo a chi è in carcere, che è di fede islamica, che non può fare il pellegrinaggio ovviamente per forza di cose, poterlo fare nel proprio cuore. Dedichiamo un brano musicale. Sì, ho scelto un brano musicale molto famoso in Italia. Nel 1996 Cheb Khaled cantava Aisha. Ascoltiamola. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux, aussi au retour de ton cou, les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes. Dans les pays d'Ivoire Dopo aver ascoltato Aisha, lascio la parola a Caterina Bombarda e alla sua intervista a Paolo Fonticelli del Teatro dell'Argine. A te, Caterina. E rieccoci, bentornati sempre su Liberi Dentro di Radio TV. L'ospite che abbiamo l'onore di avere oggi in puntata è Paolo Fonticelli della Compagnia del Teatro dell'Argine. Buongiorno Paolo. Buongiorno a tutti. E benvenuto sulla nostra stazione radio televisiva. Allora, Compagnia del Teatro dell'Argine, come sapete, fa parte del nostro progetto Edu Radio TV e fa puntate, trasmissioni sempre di teatro, per l'appunto, e fin da quando, da gennaio, abbiamo ricominciato il progetto Edu Radio. E Paolo Fonticelli, attore, regista e socio della compagnia, che appunto nasce nel 94 a Bologna, ti occupi, Paolo, di dei progetti, in particolare progetti al carcere della Dozza di Bologna. Ora, l'ultima volta abbiamo parlato con Micaela Casalboni dello spettacolo Il Labirinto, del progetto politico-poetico, che è stato presentato a Bologna dal 18 al 27 giugno. Ora io, domanda banale, proprio anche per chi ci ascolta, come si fa teatro dentro? Comunque si faceva, adesso sappiamo che è sospeso, e come si farà? Come si farà? Si farà, noi lo facciamo come facciamo tutti i progetti di spettacolo, con persone che si interfacciano a noi per imparare qualcosa del mestiere dell'attore e del palcoscenico, perché loro non si occupano soltanto di questo, si occupano sia di recitare ma anche di quasi tutti gli aspetti dello spettacolo. Come facciamo? Di solito noi entriamo e ovviamente cerchiamo di costruire un gruppo, cercando di costruire un gruppo piano piano, li conosciamo anche individualmente e cerchiamo di partire da loro per stimolarli verso argomenti che siano condivisi tra noi, in modo tale che in questo modo, insomma, ci sia un trampolino di lancio verso qualcosa che sia un po' più personale, ma questo non perché vogliamo andare per forza di cose a curiosare nella vita delle persone, ma perché parlando di cose che ci interessano quasi sempre si riesce a lavorare meglio, si riesce a costruire meglio qualcosa che abbia una valenza anche artistica, perché interessando noi ci metteremo di più in gioco. E in questo modo piano piano si impara anche la grammatica teatrale che serve per supportare poi le cose di cui desideriamo parlare. Questo è il modo che noi utilizziamo praticamente sempre, lo utilizziamo con chiunque voglia fare teatro, da un bambino, da un gruppo di bambini, fino ad arrivare appunto anche a situazioni un po' più complesse, per esempio gruppi di persone risvegliati, o insomma persone un po' in situazioni particolari, e lo stesso noi abbiamo applicato entrando alla casa circondariale. Ecco, infatti voi coinvolgete sia la cittadinanza fuori che la cittadinanza all'interno del carcere, e quindi quali progetti avete in cantiere sia per il fuori che per il dentro? Allora, dunque, questo è un momento molto particolare, parlare di progetti è un po' complicato. In questo momento siamo contenti di riaprire, abbiamo appena riaperto il TC Village, che resterà aperto per tutto il mese e che darà appunto spettacoli sia per dedicati alle famiglie sia invece per un pubblico di adulti, anche se per come siamo fatti noi e per come abbiamo voluto impostare le cose è molto sfumato in questo caso la differenza, e dopo vedremo da settembre quale sarà lo spazio per poter riavviare qualcosa. Invece a livello interno, insomma, ci vorrebbe la possibilità di poter riavere una regolarità per avere un progetto davvero formato. In questo momento comunque stiamo portando avanti per Aspera ad Astra e con modalità diverse, però a settembre dovremo proseguire il nostro lavoro. Non ti ho fatto a caso questa domanda, continuiamo dopo la musica e approfondiamo i progetti dentro. A fra poco. E mi sciolgo di dentro quando penso a te. Mi sento denso perché io ti tengo qua dentro di me. Io ti tengo qua dentro con me. Me sobriacato di una donna. Quanto è buono l'odore della gonna. Quanto è buono l'odore del mare. Ci vado de notte a cercare le parole. Quanto è buono l'odore del vento. Dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra. Quando c'è il sole che sotto rimbomba. Come rimbomba l'odore dell'ombra. Come rimbomba, come rimbomba. E come parte, come ritorna. Come ritorna l'odore dell'onda. Quando io sono solo con te, io cammino meglio perché la mia schiena è più dritta. La mia schiena è più dritta. Quando sono con te io mangio meglio perché non mi devo sfamare, non mi devo saziare con te. Me sobriacato di una donna. Quanto è buono l'odore della gonna. Quanto è buono l'odore del mare. Ci vado de notte a cercare le parole. Quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba. Come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba. E come parte, come ritorna l'odore dell'onda. Ah! Bentornati sempre su Liberi Dentro Eduradio, siamo sempre con Paolo Fronticelli e sempre della Compagnia Teatro dell'Argine. Stiamo parlando dei progetti all'interno del carcere. Questo è un momento difficile, un momento in cui i teatri lavorano senza pubblico e senza gruppo. E quindi io volevo chiederti in particolare in questo momento com'è ripristinare questa dimensione un po' della individualità, perché so che fate praticamente colloqui individuali in carcere. E se si potesse ricominciare quando rientrerete come gruppo, da cosa ripartireste? Ma allora, dunque, in questo momento ovviamente la situazione è complessa perché ci richiede un lavoro che per noi è una, quasi una distorsione, una stortura rispetto a quello che è il teatro. Nel senso che il teatro si fa evidentemente in compresenza. Non dico in presenza, che ormai è una parola che è diventata, come dire, all'ordine del giorno e ha acquisito significati ben precisi, ma in compresenza, cioè richiede comunque il fatto che delle persone incrocino lo sguardo e tra loro si parlino e tra loro capiscano di che cosa stanno parlando. Un regista deve vedere negli occhi un attore mentre recita, se sta capendo quello che gli viene spiegato, se sta recitando proprio la cosa come è stata raccontata e spiegata. Non è solo un problema di controllo, è proprio un problema di condivisione di linguaggio, di condivisione di pensiero, di significato, che è il fondamento del teatro, che peraltro è collettivo, per cui in questo momento, per esempio, noi siamo riusciti a vedere, appunto, a vederli singolarmente, però mancano dei pezzi, perché il teatro è collettivo. Fino ad ora non è stato possibile, noi auspichiamo che prima possibile sia possibile tornare a lavorare in presenza e con dei gruppi magari anche piccoli, perché è proprio nella natura del teatro stesso, altrimenti è davvero complicato e complesso riuscire a immaginarsi qualcosa. Ti ringrazio tanto Paolo, spero che anche le persone dei vostri corsi che in questo momento magari ci stanno ascoltando siano appunto coinvolte nelle tue parole, sicuramente sarà così. Ci rivediamo la prossima volta, spero sempre su Liberi Dentro Duradio. A presto, grazie. A presto, grazie a te. Stare seduto sopra il ciglio d'un vulcano, mi brucerei, ma salutandoti dall'alto con la mano, e invece sto sdraiato, senza fiato, scotto come il tagliolino al pesto che ho mangiato, il resto qui disteso sul selciato ancora un po', ma prima o poi ripartirò. Accetterei di addormentarmi su un ghiacciaio tibetano, congelerei, ma col sorriso che si allarga piano piano, e invece sto sdraiato, senza fiato, sfatto come il letto su cui prima mi hai lasciato, il resto qui distrutto, disperato ancora un po', ma prima o poi ripartirò. Salirò fra le rose di questo giardino, salirò fino a quando sarò solamente un ricordo lontano, salirò fra le rose di questo giardino, salirò fino a quando sarò solamente un vino lontano. E anche oggi la nostra trasmissione Liberi Dentro, il buongiorno di Liberi Dentro, termina qui. E ringrazio tutti voi che ci avete seguiti, un saluto alle persone ristrette del carcere della Dozza e di tutte le case circondariali della Regione Emilia-Romagna, da me, da Antonella Cortese, da Caterina Bombarda, da Ignazio De Francesco e Enea Flacco. Un caro saluto e continuate a seguirci perché subito dopo potrete vedere e ascoltare il CPA di Ferrara e il CEFAL che parlerà del mestiere della igienizzazione. A presto! Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.